Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Noi insieme appassionatamente, scriveva Patrizia Formica accanto alla foto pubblicata su Facebook solo qualche ora prima, abbracciata Salvo Pironello, l'uomo che l'avrebbe poi uccisa mentre dormiva. Saluta il pubblico, dillo ciao a tutti. Dai, fai un sorriso, dai. Dai, saluta, dillo. Fuori piove, ma chi se ne frega, io ho il sole dentro, scriveva lei sui social qualche giorno fa. Fino alle foto pubblicate poco prima di essere uccisa, bellissima giornata, divertimento assoluto. Com'è possibile che lei non si fosse accorta che il suo amore incontrava solo rabbia, odio, rancore e follia? Qualcuno dice che non volesse vedere, forse non voleva accettare un altro fallimento. Convivevano da poco tempo, lei 44 anni, separata, madre di due figli che non vivevano con loro, lui 52, a sua volta separato e padre di due giovani. Erano persone normali, raccontano i vicini, ma ci vuole poco per scoprire che ancora minorenne Pironello si era macchiato di sangue. Il 30 dicembre dell'81, con tre complici, assaltò un autobus di linea, rimase ucciso l'autista. Filippo Pironello finì in carcere con l'accusa di rapina a mano armata. 36 anni dopo, alle 4 del mattino, nella mente di quell'uomo è scattata di nuovo la furia omicida. Con un coltello da cucina ha massacrato la sua compagna. Avevano litigato, sembra lui si fosse già stancato della loro breve convivenza. È chiaro che non è possibile entrare nello specifico di questa vicenda, che è un fatto di cronaca che ha molto destato impressione e molti commenti. Oggi sia Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, Mattia Feltri sulla Stampa, toccano comunque questo argomento, cogliendolo però da un punto di vista abbastanza recente rispetto a tutte le letture di tutti i delitti della storia. Entrambi, ma come tutti oggi gli osservatori, sono abbastanza sorpresi del fatto che questa donna avesse pubblicato su Facebook un video e dei post in cui esprimeva felicità, contentezza, soddisfazione. Fuori piove, ma io ho il sole dentro. È una frase che è profonda, poetica, pensata, estrema. Dà il segnale di una felicità cosmica così intensa da essere raccontata agli altri. E poi la notte, come è noto e come è stato detto poco fa dal servizio preso dal TG5, e l'uomo in realtà l'ha sgozzata, l'ha uccisa. L'ennesimo caso di uomini che non accettano, non sanno gestire una relazione, pensano che la maniera più drastica è assoluta per terminare una relazione che non si sappia gestire, quella di eliminare appunto il contendente, quindi l'altro partner. Qual è il punto di riferimento su cui oggi voglio convogliare l'attenzione di chi mi ascolta? Il primo punto è la differenza palese, ce ne rendiamo conto adesso, della rappresentazione che noi facciamo di noi stessi nei social network e la realtà. Molte volte i lutti ostentati, le felicità dichiarate, le tristezze, i pigli poetici, le aggressività, gli odi, i rancori, gli amori, le affezioni, le dichiarazioni d'amore, di passione, di condivisione, in realtà sono di una totale ipocrisia, non rappresentano mai quello che siamo davvero. Siamo in una grande piazza in cui si rappresenta quello che vogliamo che di noi stessi passi, e questa donna ha fatto la stessa cosa, doveva rappresentare, dopo una vita personale, sentimentale, abbastanza disastrata, che lei finalmente ce l'aveva fatta, finalmente aveva l'uomo che ha cercato tutta la vita, finalmente viveva l'idillio del sogno d'amore. L'aveva fatto, non vogliamo entrare nell'intima essenza di quello che può essere una donna che poi è stata uccisa, ma l'ha fatto probabilmente perché sapeva che qualcuno l'avrebbe letta, sapeva che i suoi amici, le sue amiche, le persone del suo entourage, quelli che la seguivano nei social network, avrebbero comunque osservato la sua felicità, aveva fatto la rappresentazione della sua felicità. Poi a posteriori le persone informate, ormai è stata ingannata, non vedeva che uomo avesse vicino, l'uomo aveva già dei precedenti, era un uomo che sicuramente era qualcosa di diverso rispetto a quello che lei dichiarava di avere accanto, non quello che lei percepiva. Quello che percepiva non lo sappiamo mai, non lo sapremo mai e non avremo mai la certezza di quello che lei vedesse in quest'uomo. Ma voi, a proposito, siete proprio così sicuri di chi avete accanto? Tutte le volte che raccontate, declamate o denigrate la persona che avete accanto, siete proprio certi che in realtà facciate una cronaca reale di quello che è, oppure semplicemente anche voi vi lasciate andare? qualunque sia il genere, al romanzo della persona che avete accanto. 800 24 0024. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog, cronache meridiane. Io l'ho conosciuta a Roma il 24 di agosto come una persona normale che dichiarava di essere un commissario capo della DIA. La madre insegnante, il padre anche lui di origini calabresi, benestante. Quindi da una famiglia normale come tutte quante. E non ho avuto motivo di dubitare di questa sua identità, visto che aveva distintivi e segni della Polizia di Stato. Cioè sono stata molto credulona, forse ingenua, nel credere nella persona. Ma giustamente sfido ognuno di noi che conosce una persona, che motivo c'è di parlare di una falsa identità? Questa è un'altra storia, la storia di Agnese, ingannata al marito. Abbiamo preso da YouTube, canale Italia 2, ok? È una storia che in realtà è raccontata con crudezza ma anche con realismo, una donna che si è resa conto a posteriori di un totale inganno. Su quali persone voi vi siete fatti un'idea sbagliata e quanto ve ne siete dovuti pentire poi a posteriori? Ma riprendo il filo del discorso da cui siamo partiti, la donna uccisa dal compagno nel sonno a Caltagirone, che ha scritto "Buongiorno a tutti" su Facebook: "Fuori piove e chi se ne frega, ho il sole dentro. Le persone che amo sono accanto a me, può anche arrivare il diluvio, mi sento al sicuro". E non si poteva sentire al sicuro, perché la persona che aveva accanto a sé e dalla quale si rifugiava dal diluvio che infliggeva alle persone esterne alla sua casa, al suo nido di felicità, al suo idillio amoroso, in realtà era tutt'altra persona. Mia, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno dottore. L'ascolto. Io a proposito di questo caso, ho avuto diciamo una conferma di situazioni che ho visto molto spesso, soprattutto con mie coetanee. Io ho 50 anni. Faccio un esempio. Donne che si sentono complete solo in coppia. Questa signora che è stata uccisa ostentava su Facebook, perché io ho fatto una cosa bruttissima, sono andata a spiare il profilo perché allora mi dica, l'hanno fatto un po' tutti, mi dica le sue impressioni andando a vedere il profilo di questa donna. Sa, è una scrittura perenne, rimane su Facebook, se qualcuno lo toglie e uno diventa protagonista di un fatto di cronaca, va da sé che si vada a vedere su Facebook, è come andare a vedere il luogo di un delitto. E cosa ha capito guardando il profilo di questa donna? Innanzitutto ho guardato questo video che lei poi ha postato con il commento "giornata meravigliosa, noi due appassionatamente". In realtà lui era ingrugnito, stava in un angolo e non partecipava affatto alla festa. Poi io... Quindi già c'era una prima, diciamo, distorsione della realtà. La prima impressione è stata che in realtà non sembrava così, cioè era felice lei e voleva rendere tutti partecipi della sua felicità, ma in realtà lui era tutt'altro. Poi io... O voleva lei dare un'immagine di felicità che in realtà non c'era. Esatto, e che in realtà era solo nella sua testa. Poi io sono andata un po' indietro anche nella pagina Facebook di questa donna, lo so, sono stata un po' una portinaia, un po' pettegola. Scusi, Facebook è aperto, quello che è aperto si può vedere, non è nessuna colpa, nessun peccato, nessun reato andarlo a vedere. Se una pagina aperta, allora, dei post sono visibili, sono fatti perché qualcuno li veda, quindi... Mi sento meno in colpa allora. Certo. Sono andata un po' indietro e ho visto che questa signora postava dei messaggi probabilmente rivolti o al suo ex marito o... più che altro alla nuova compagna dell'ex marito, ed erano post molto rancorosi, molto cattivi. Allora Mia, scusi Mia, visto che lei in questo momento è la nostra interprete dei messaggi lasciati in codice su Facebook, accade che spesso donne, ma anche uomini soprattutto, quando finisce una storia amorosa usino i social network come strumento di rivalsa, fanno vedere le donne che sono bellissime, gli uomini con dei fisici stupendi, chiamano amiche prezzolate particolarmente appariscenti, ti prego fai una foto con me in atteggiamento intimo, così la faccio rodere, oppure donne devono subito dimostrare che possono fare a meno dell'uomo che l'ha lasciata e l'ha abbandonata. Esiste questa pantomima di rappresentazione di un recupero amoroso quando una storia finisce? Esiste, e per quanto riguarda la mia esperienza, esiste soprattutto tra le mie coetanee. Le ragazzine non fanno queste cose. Sono molto più laiche, più asciutte, non ne frega niente. Se ne fregano fondamentalmente, cioè sono molto più rilassate, più scialle. Invece noi dobbiamo dimostrare, noi dico noi perché io appunto sono una cinquantenne, dobbiamo dimostrare che non siamo delle sfigate, no? E quindi abbiamo una vita meravigliosa, abbiamo trovato un altro uomo meraviglioso, più ancora di quello che ci ha lasciate, e quindi millantiamo, quindi postiamo queste foto, questi messaggi, che però sono soltanto nella nostra testa, e lo facciamo soltanto per creare invidia in qualcun altro. Lei ha fatto un'analisi, devo dire, molto attenta, molto partecipata chiaramente, ma molto realistica, che oggi non ho visto fare commentatori, perché sono uomini e non entrano in questi meccanismi che sono molto sottili. Ha perfettamente ragione. Il video delle vacanze, il video dei posti belli che si va a vedere, i video nei ristoranti belli dove c'è felicità, bei calici di champagne o prosecco a seconda delle circostanze, le persone belle che si frequenta, bisogna far vedere che la vita per noi ricomincia. Esattamente questo è il senso dell'equivoco che oggi tutti vedono come qualcosa di insondabile, incomprensibile, come non se ne è accorta. Probabilmente se ne era accorta benissimo, ma per lei era importante la dimostrazione a chi aveva alle spalle che vivesse una vita felice. È questo, Mia? Sì, e in particolare la vita felice proprio in funzione dell'essere accoppiate, perché una persona single non è felice, anche se in realtà lo è, perché vive benissimo, tranquillamente la sua vita senza rotture di scatole. In realtà per queste persone è incompleta, quindi loro accettano questa signora, a me spiace dirlo, però questo era un disgraziato già con dei precedenti pesanti alle spalle, probabilmente non era l'innamorato premuroso che lei voleva far credere, non era uno che una notte si è svegliato e ha detto boh, adesso ti accoppo. Non è un raptus, loro... ecco, diciamo, è così. Non è stato un raptus in una coppia felice. Come sempre si vuol far passare. Diciamo che si era costruito con quello che aveva a disposizione, e a disposizione sotto mano aveva quello, una immagine di idillio per, nel grande luogo della rappresentazione della nostra vita perfetta, dimostrare all'ex marito, alla nuova compagna dell'ex marito, alle amiche, al suo consesso di amici sociali, che lei comunque si era rifatta una vita con una persona degna che la rendeva felice. Lei mi ha aiutato molto, Mia, resti però in ascolto, potrebbe essermi ancora utile, ne approfitto. È raro trovare una donna che ha una maniera così acuta e priva di ogni pudore di raccontare anche quelli che sono i lati oscuri dell'ostentazione e della felicità. Riccardo, buongiorno. Ciao. L'ascolto. Pronto? Sì. Non ti sento benissimo. Beh, innanzitutto mi fa un po' sorridere il fatto che siano sempre additati gli uomini, gli ex mariti, per essere quelli che la combinano grossa. Non cominciamo, non la voglio fermare, la faccio parlare tutti. Ma perché cominciamo con questa cosa ridicola? E ci sono anche le donne. Se è uno che ha sgozzato una donna, sono sempre loro. In questo momento è un uomo che ha sgozzato una donna. Cosa le rode di questo? Cosa le toglie la sua centralità virile nell'universo, questa cosa qua? Solo per capirlo, perché l'approccio è totalmente fuori contesto. Lo dica. Okay, questo può essere. Io in realtà volevo raccontarvi la mia di storie, perché la mia di storie è esattamente, paradossalmente, l'opposto. Cioè io ho vissuto una vita felice in cui ero convinto di essere in una situazione di coppia perfetta, con un figlio di 4 anni e una moglie che adoravo, e all'indomani e una sera sono tornato dal mio viaggio di lavoro e la donna che avevo sposato da 5 anni ha letteralmente, e uso questa parola non a proposito, rapito il figlio e si è andata a nascondere insieme a un uomo, e io dalle stelle sono passato alle stalle. Io ero uno di quelli che raccontava di avere una vita meravigliosa. Peraltro, devo dire che lo racconto tuttora, perché il fatto di aver, voglio dire, scoperto questa situazione chiaramente mi ha fatto andare avanti, ma... Oddio, è caduta la linea? Adesso lo recuperiamo, Riccardo, se sembra che lo interrompo. Era comprensibile l'approccio di Riccardo, che ho subito censurato, però quando ancora parliamo di un delitto caldo, di una donna è stata sgozzata, ma anche le donne però. Riccardo ha tutte le ragioni per essere deluso comunque nella sua esperienza personale al genere femminile. Ha raccontato una storia di abbandono, ha raccontato una storia di tipo diverso, ha detto una donna in cui lui confidava la massima fiducia, in realtà l'ha ingannato. L'abbiamo ritrovato, Riccardo? Sì, ecco. Io so dove siete rimasti. No, era caduta la linea, l'ho ripreso io. Ho detto, era comprensibile il suo incipit. Lei ha avuto una storia personale molto dolorosa, di grande delusione di una persona a cui ha dato la massima fiducia. Uccidere è altra cosa. No, certo, non era quello Però lei aveva accanto una persona su cui avrebbe messo la mano sul fuoco totalmente. Assolutamente sì, e devo dire che... nel mio caso io non credo di essermela raccontata. Io questa persona l'amavo profondamente, lei diceva di amarmi profondamente. Però mi concede che un'altra cosa: lei è stato lasciato da una donna che l'avrà ingannato, tradito, non è stato sgozzato, è qualcosa di lievemente diverso. Ma non è così, non so se avete sentito la storia. In realtà quello che è accaduto è stato ben peggio che essere lasciato da una... Il seguito di una storia finisce, molte volte i figli diventano ostaggio, si entra in un meccanismo di una crudeltà esasperata, l'abbiamo parlato più volte. Non sono circolati i coltelli, è diversa la cosa. È un esempio lungo, lancinante, che dilania l'anima, di crudeltà estrema se vuole, ma questo è un gesto di tipo diverso. Comunque, grazie a testimonianza, Giampiero. Ah no, Giampiero, fermo un attimo, 28, diamo la linea, ci fermiamo un istante. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento Melog, Cronache Meridiane. Dopo 3 anni di conoscenza ci siamo sposati il 15 maggio 2011 e giustamente lui parlava del suo lavoro a Roma. Anche io impegnata nel mio lavoro, qualche volta sì, ho chiesto di andare sul suo posto di lavoro, ma lui impegnato in situazioni un poco particolari, visto che dichiarava di far parte della DIA, quindi un lavoro abbastanza delicato, non ho insistito più di tanto, quando ho visto delle remore da parte di mio marito di non portarmi. Questa è sempre la storia di Agnese, che sarà contando una lunga e complicata delusione graduale rispetto a un uomo che in cui lei si è accompagnata, che era tutt'altra cosa rispetto a quello che credeva. Ma ci sono anche situazioni molto più semplici, molto meno elaborate, in cui si accorge all'improvviso che la persona che è accanto è tutt'altra cosa rispetto a quello che immaginavi. Noi partiamo però da un esempio ben diverso, la donna di Caltagirone uccisa la notte dal suo compagno, che in realtà metteva su Facebook messaggi che proclamavano l'idillio, l'amore, la felicità, quando palesemente questo non accadeva. Ci ha chiamato un'ascoltatrice, ci ha detto che accade così spesso, soprattutto le donne di generazione che hanno 50 anni, così usano il social network per dare una certificazione esterna alla loro felicità o per delle piccole rivalse amorose, per mostrare agli ex che loro ci hanno fatta lo stesso, hanno un uomo accanto bellissimo, e in realtà non fanno altro che creare un idillio fittizio, qualcosa di fantasmatico, inesistente, a cui non credo nemmeno loro. L'importante è creare un'apparenza, un po' come quelle coppiette che vanno nel corso del paese o della cittadina sotto braccio, ostentando felicità, quando poi appena chiudono la porta di casa si tirano le pentole in testa. Lucia, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io volevo dire questo, sentendo questa cronaca mi sono resa conto, io ho 60 anni, mi sono resa conto che il fatto di scrivere delle cose su Facebook comporta 2 atteggiamenti tendenzialmente, almeno per quello che vedo io. parlo principalmente appunto di coloro che scrivono, che parlano di felicità, eccetera, perché alcune persone potrebbero crederci, per l'appunto, cioè essere autoconvincersi di questa felicità, e credo sia la cosa peggiore, nel senso che poi succedono alcune cose. Ci sono anche quelle, e mi metto parzialmente fra questo gruppo, che lo fanno scientemente, cioè sanno che stanno scrivendo una bugia, ma chi se ne frega? Per far rosicare gli altri? No, non per quello. No, semplicemente perché è più semplice o più comodo o serve al proprio obiettivo. Cioè, io non voglio avere rotture di scatole e, per esempio, io metto la fede, io porto la fede e non sono sposata. E il colmo è che questa fede me la sono fatta regalare dal mio convivente. Ma per far finta che è sposata, qual è il problema? Sì, voglio, no, faccio finta nei confronti degli altri. Ah, beh, perché per non farsi fare tante domande c'ha la fede, così non rompo le scatole. Ecco, non rompete. Che cacchio, cioè, non capisco perché io non debba poter fingere. Ma io figuriamoci, che io non posso dire una bugia. Ho sempre fatto le lodi della finzione. Ecco, basta capirsi che abbiamo a disposizione un grande palcoscenico che sono i social network. Sì, ma questo è gioco forza. Chi è sincero? Nessuno. Rappresentiamo sempre la parte che di noi ci conviene, per un nostro istinto di sopravvivenza, certo, di rappresentare. E quindi rappresentiamo la felicità perché ci fa piacere anche vedere gli altri che rodono per la nostra felicità. Credi che soprattutto per semplicità. Io voglio semplificare la mia vita. Sono contenta, così non mi rompo le scatole. Vabbè. Non mi rompono le scatole. È un punto di vista. Sposata, e felice e contenta. Benissimo. Si fa bella, si fa delle belle foto, tutta truccata, figa, con la borsetta prestata dall'amica. Cioè, guarda quanto sono. Cioè, uno può andare avanti all'infinito per queste cose. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Intanto il numero 800240024, continuate a chiamare perché è interessante capire cosa ci sia dietro questa sorta di dilemma che oggi si poneva su molti giornali. Come mai diceva su internet essere felice quando in realtà aveva un assassino vicino? Per questo, perché noi creiamo ogni giorno il meraviglioso teatro della rappresentazione della nostra vita. Daniele, allora. Sì. Bellissimo preambolo, infatti volevo proprio legarmi a questo e dire, ma se provassimo a dissociare il fatto della donna di Caltagirone, ovvero statisticamente come dire, succede che un uomo, lo vediamo, ammazzi la sua compagna, il tutto però assume un qualcosa di pazzesco, di allucinante, solo perché forse è stato messo su internet questo amore meraviglioso, queste foto in cui si trovano e poi e com'è possibile, e poi lui l'ha ammazzata. Ecco, forse se provassimo a dissociare la cosa, cioè a mettere il fatto che statisticamente è un dato statistico, voglio dire, gli omicidi succedono, da il fatto, cioè, se non ci fosse stato internet, se non ci fossero state le foto, se non ci fosse stato, come diceva la persona di prima, no? Io metto la fede perché così nessuno mi rompe le scatole. Di cosa staremmo parlando? Ma noi stiamo parlando di un fenomeno. Noi, guardi, questo è un programma in cui si analizza la contemporaneità. Stiamo riflettendo su cose che normalmente può sembrare banale rifletterci, ma secondo me è un'utilità. Che oggi l'umanità, rispetto a 5 anni fa, 6 anni fa, ma diciamo un po' più, 10 anni fa, ormai sono 8 anni che esiste Facebook in Italia in maniera usata in maniera massiva negli ultimi anni, ma che esiste sono 8 anni. L'umanità, rispetto a prima che non ce l'aveva, ha un luogo di rappresentazione che ci permette di avere una doppia lettura della realtà. Il fatto di cronaca nudo e crudo, una donna sgozzata dal convivente durante la notte, un punto in più di lettura, quello che la donna voleva fare vedere al mondo di quello che era il suo rapporto per n motivi. È un'analisi, semplicemente si guarda e si osserva, come lei osserva un paesaggio e dice: vedi, qui era una chiesa romanica, ci hanno fatto sopra una chiesa gotica, poi ci hanno rifatto altre cose e via dicendo. Ecco, noi osserviamo questo, osserviamo varie stratificazioni della realtà per avere un quadro più completo della realtà che stiamo vivendo. Osserviamo queste stratificazioni, ma non è che scopriamo la America o facciamo delle deduzioni geniali, semplicemente osserviamo, vedi, questa donna, come tante altre donne, abbiamo la conferma dal pubblico che è un feedback costante, ha una sua vita parallela che è quella di rappresentazione verso il mondo. Nicoletta. Tocca a me? Sì. Sì, buongiorno. Sì, io, come ho detto alla signora che mi ha risposto al telefono, mi sembrava una parodia dell'assurdo, perché comunque c'è una persona che è morta, è una persona che è morta in una maniera assurda, e a prescindere da quello che siamo noi dentro di noi. Non è che esistano maniere non assurde di morire. Sì, quello sono d'accordo. Tutti i giorni muoiono le persone in maniere... Sì, però è stata uccisa, è un delitto. Una persona ha ucciso un'altra persona. Sì, sì. Quindi andare a scavare in quello che è la nostra priorità, che è quello che noi siamo, diciamo, quello che sentiamo, quello che vogliamo immaginare, eccetera. A prescindere da questo, c'è una legge che non tutela tutti questi femminicidi. E questa è la cosa che volevo dire, la cosa che più mi fa del male. Io però Nicoletta, è un altro argomento, scusi, oggi non parlo del femminicidio, non perché non sia un argomento importante, ho trattato tantissimo. Oggi parlo della doppia lettura che abbiamo. Ha presente Rashomon, il film di Kurosawa, in cui viene uccisa una ragazza, ci sono 7 versioni differenti. Ecco, oggi facciamo il Rashomon di questo episodio tristissimo di cronaca attraverso la testimonianza che la donna lascia di se stesso su Facebook. Il Rashomon, a un certo punto, viene evocato il fantasma della vittima, che darà ancora un'altra versione rispetto alle tante versioni. Questo dimostra che non esiste mai una versione assoluta della realtà. Lo facciamo mestamente, modestamente, con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione. Poi parleremo anche di femminicidio, però un'altra volta. Emiliano. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Ma il discorso è sempre questo, è fin dall'inizio. Il problema è sempre come si utilizza, secondo me, il social network, in questo caso Facebook, che è il social network più famoso ormai da un bel po' di anni a questa parte. È stato detto quasi tutto, diciamo, dagli ascoltatori stamattina e anche da lei. Io noto, no, ad esempio, io utilizzo moltissimo Facebook perché lo utilizzo per pubblicizzare quello che faccio. Io avevo già chiamato tempo fa perché faccio radio locale, quindi pubblicizzo. È uno strumento di lavoro, certo. Esatto, per le mie pubblicità, per le mie trasmissioni in podcast, lo utilizzo per il mio mercato dell'usato e via. Ma io noto veramente, specialmente nelle donne, c'è proprio questo modo di utilizzare Facebook proprio per far vedere la felicità, che poi non si capisce veramente quanto sia vera o falsa questa felicità. Questo a me non mi interessa, ma ad esempio lo si nota anche con queste foto. Ci sono tante persone che mettono queste foto, proprio il fatto di dover mettere la foto con il bacio. Sì, però sono fenomeni. Lei ormai, usandolo molto per lavoro, ha perso la percezione di un uso più personale, più viscerale di Facebook. Non è uno strumento di rappresentazione di se stesso, non è il marketing di se stesso, ma è della sua radio. Ma le persone che non hanno una radio, anch'io ogni mattina pubblico i pezzi che scrivo, le trasmissioni che faccio, ho perso mai il senso di raccontarmi, racconto quello che faccio perché faccio questo mestiere. Ma chi non fa un mestiere in cui racconta attraverso il suo mestiere, in realtà racconta se stesso. Allora sì che entrano in gioco tutti questi stratagemmi, parole di passo, mode, usi, il selfie con la bocca cuoricino, che si continua a fare perché è l'irrisione di chi ha cominciato a fare i selfie con la bocca cuoricino. È un mondo da osservare, come si osserva la realtà, osserviamo la realtà riflessa. Patrizio. Sì, buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Ascolti. Salve, ma ho anticipato un po' l'ascoltatore di prima, perché voglio raccontare un attimo una cosa che mi è successa. Io frequento un gruppo di persone che fanno attività in comune, in cui una persona ha avuto delle vicende familiari, il marito è andato via, poi dopo è tornato, eccetera, eccetera. Tempo fa mi è successo di leggere su un giornale una lettera di una lettrice che raccontava questa storia qua con molti più particolari. E l'ho ricollegata subito a questa persona e ho quindi anche ricollegato il suo esibizionismo della felicità che mette su Facebook, quindi l'arrivo dei figli, la laurea di uno, lo sport dell'altro. Invece era tutt'altra cosa la sua vita, voleva dire questo? No, più che altro non si ricollegava all'evento tragico di cui parlava prima, però questa persona faceva una specie di esibizione della propria felicità e è una cosa mi sembra molto, come dire... Però non è un peccato grave, uno se vuole fare esibizione di felicità e sta meglio, lasciamoglielo fare. Giudicare secondo me è un rigorismo che non appartiene alla modernità. Sì, osserviamo che ci sono, usano molte volte Facebook e fare ostentazione della propria felicità, anche mettere i gattini, i cagnolini, i miei tesorini, i nostri bambini, e ci diamo la mano, il mio amore unico, la mia donna meravigliosa, la mia principessa, il mio principe azzurro, la mia povera nonna in cariola, cioè tutto va bene per dimostrare di essere felici. Se poi stanno meglio, buon per loro. 800 24 800 24 0024. Ci sentiamo tra un istante. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Era specializzato in informatica, nella sicurezza dei software, e aveva lavorato come consulente esterno al Ministero degli Interni, al Senato, alla Camera, e nel frattempo sono continuate le indagini e è uscito fuori l'inverosimile riguardo la sua identità e la scoperta dei gioielli che mi sono scomparsi in casa e regolarmente denunciati da me ai carabinieri. E adesso, ad oggi, noi non sappiamo dov'è, è irreperibile. Questa è Agnese che sta raccontando la sua storia, si è sposata a un truffatore che ha fatto credere d'essere questo mondo e quell'altro. Chissà perché lei, poi uno non si pone mai le domande, perché questa persona che fa tante cose, che è così eclettico, così richiesto, così importante, così intelligente, deve stare proprio con me? Uno se deve chiedere ogni tanto, dice, ma perché? Perché noi siamo sempre convinti di avere doti eccezionali. Delle volte le persone che sono fantameravigliose e stanno con noi dovremmo chiedersi se è proprio vero che siano così meravigliose, o se no magari noi abbiamo una iperstima delle nostre qualità che forse faremmo bene a moderare. Matilde, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Santi saluti di Firenze. Sono contenta di far da con lei. Volevo solo dire che quando succedono queste cose c'è sempre qualcuno che può spulciare su internet, su Facebook in maniera un po' morbosa, però sempre appunto mettendo le mani avanti, poi dicendo ma anche se ne sarebbe mai aspettato. A me è venuto in mente che ho detto un libro che si chiama La ragazza sul treno, non so se lei conosce, che praticamente è proprio così. Fino alla fine non si capisce chi è l'assassino, però poi tu dici, madonna, ma è stato proprio davvero. Niente, volevo fare questa cosa un po' goliardica. E salutare Tommy, suo figlio, perché ho visto il suo spettacolo spettacolare. Va bene, salute signora, ci sentiamo presto. Matilde. Dario, buongiorno. Eccomi, buongiorno Nicoletti. Allora, no, fa dire che sono le 12.50, già il fiasco del vino vedo che ha fatto. Allora, dunque, a me è piaciuta tantissimo La signora dell'anello, perché per me rimane una pietra miliare. Una persona che si fa fare l'anello perché così vengono, questo fa capire. È abbastanza diffuso, molte coppie non sposate, soprattutto in passato. Le donne separate e gli uomini separati, devono mettersi l'anello per non far vedere, certo. Sì, ma la cosa bellissima volevo dire, perché poi tutto questo si collega alle foto belle su Facebook, sulle vacanze, su tutte le cose fichissime della vita, mai uno che scrive ovviamente su Facebook, ho passato un weekend proprio di merda con la mia famiglia, questo non si deve mettere. Ho mangiato di merda, sempre dei piatti fantastici. Sì, ma l'anello è la sensazione, vuol dire, io mi sento a posto così, cioè io sono felice di questa vita così, mi sento bene. E quello che lei ha detto, che è l'elogio non dell'infelicità, però l'elogio del sentirsi a posto, secondo me questa trasmissione oggi si può concludere così, è l'elogio dello star bene. Manca 4 minuti, adesso non affrettiamoci, ancora 4 minuti. Però volevo dire un'ultima cosa, per quanto riguarda la signora truffata dal marito finto poliziotto, dunque io faccio un mestiere abbastanza interessante, faccio il pilota e quindi ho sempre detto quello che faccio, è vero. Insomma. Che è una delle prime cose che si raccontano sul far colpo, certo. Faccio il pilota. Lei lo fa davvero? Certo, ma io lo faccio davvero. E cosa inventa? Quando deve far colpo cosa inventa allora? Ma guardi, io non ho... Il pilota è scontato, faccio il pilota e sì, un'altra cazzata. Io non è che invento molto, anzi devo dire che non invento nulla. Ma la cosa pazzesca è che certe volte penso a una festa, a una riunione. Io non sono sposato, non sono fidanzato, insomma sono un single. Diciamo, è su piazza. Sono Beh, piazza. È raro. Ma la, È raro, sì, va bene, però va bene, ho avuto le mie storie, insomma, sono finite. Ma la cosa bella è che certe volte mi è venuto da dire a una festa, un compleanno, un matrimonio, dove si cucca, no? Si becca, insomma, dire, che cosa fai? Io avrei voluto dire anche l'idraulico, perché avrei voluto raccontare una cosa diversa, magari meno interessante. Probabilmente avrei avuto anche meno... Lei si sente, lei sente già al top delle illusioni femminili, ci sono già pilota, che mi posso inventare di più? Tira fuori, ci avete un tesserino alla pilota, non lo so, vi portate una cloche nascosta nei pantaloni, ci avete comunque qualcosa per fare colpo? Racconti, sì, però lei capisce che ogni cazzaro che vuol far colpo racconta che fa il pilota, è dura, poi magari si esercita con il videogioco del simulatore di volo, però dice di fare il pilota. Comunque in bocca al lupo per il suo cuccaggio da uomo single, molto raro su piazza. Liliana? Pronto? Eccola, sì. Pronto, buongiorno. Scusi. Buongiorno. Io volevo parlare che quando uno posta le cose su Facebook, posta le cose che uno vorrebbe che gli altri magari sentissero anche invidia. Quindi non ci credo a tutte le foto, tutte quelle bellezze che pubblica la gente, perché a me è capitato 2 estate fa, siamo andati a Sorrento con un gruppo di amici. Le foto sono uscite bellissime, però la vacanza è stata bruttissima, un disastro, perché nessuno si metteva d'accordo, nessuno voleva mangiare delle cose. Quindi però dove si mangia, come si dividono i soldi, io mangio la bistecca, tu mangi il brodino, allora io metto meno soldi, più soldi, così la cosa, vero? Infatti, quindi la gente su Facebook vuole non si vede immagine. Questo. E certo, su Facebook non si vede questo. Tutti contenti, infatti, tutti felici, lo so, capita così. Hai mai visto le foto? Il mio amore immenso che non lascerei mai, foto sotto la Tour Eiffel, foto sulla Quinta Strada, foto sempre in viaggi stupendi, poi non si vede il retro quando si tira le ciabatte in faccia, capito? Roba del genere. Giorgia. Sì, pronto, mi scusi. Io penso una cosa, anch'io con Facebook purtroppo mi tocca lavorarci su un bacino di utenti abbastanza ampio, di tutte le età. Secondo me i ragazzini sono più bravi perché vivono nel loro mondo degli adolescenti che è poi non stanno nemmeno più su Facebook, hanno altri luoghi dove si incontrano. Anche, però sono anche più scafati perché da ragazzino se tu dici una bugia, se tu metti una foto in cui ti mostri come non sei, tutti gli altri ti prendono in giro subito. Da adulto chi è che si permette di andare da un adulto a dirgli, beh, lo so che la tua storia in realtà fa qua tutte le parti. Si dice alle spalle, non si dice mai su Facebook. Esatto, mentre i ragazzini magari... Mi spiega una cosa, Giorgia, perché quando una donna mette una foto anche orrenda di lei vestita malissimo... Tutte le donne a scrivere amore, bellissima, perché questo? Sei stupenda, perché secondo me la falsità degli adulti, che è quella lì, non è più, un po' è anche perché dici... Vabbè, prenda fiato, la sento un po' affannata, non so se è l'emozione di parlare alla radio o perché sta correndo o sta facendo cose impensabili alle 12.55, ma con una certa gratificazione. Alla prossima.